Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È un sabato pomeriggio. Le nuvole stanno coprendo il tramonto, minaccia pioggia. Stiamo per andare a cena e suona il campanello. Alla porta si presenta un tizio che non conosco e che da come è vestito non mi dice niente di familiare. È un incrocio tra Vasco Rossi da giovane e un hippie, tipo Easy Rider. Ha un pizzetto coi baffi incolti, pantaloni sdrusciti, una maglietta sporca, ma ha un paio di All Star nuove di pacca ai piedi. Alla domanda che cosa desidera, il ragazzo risponde che cerca mobili vecchi. Gli mostro la mercanzia, lui li guarda con superficialità come fosse un esperto, e ogni tanto si ferma, controlla meglio. Ma dopo qualche minuto mi guarda e mi dice: no, niente roba di valore. Sono Giordano Rossato, ho 29 anni, vivo a Fornezzo Vicentino, sono fidanzato da una vita e sto aspettando un figlio che dovrebbe arrivare a giorni. Fate questo piccolo sforzo, provate a fermarvi 30 secondi da quello che state facendo. Se state guidando non vi fermate, ma è più facile fermarvi un attimo con la testa. Provate a pensare a un oggetto, a una cosa, a qualcuno anche, che un tizio che magari non conoscevate o che conoscevate poco vi ha portato a casa, vi ha messo in mano e vi ha lasciato lì. Qualunque esso sia, qualsiasi cosa sia, è chiunque fosse quel tizio. 349-238-6666. Adesso fate una cosa, provate a pensare invece a qualcuno che è arrivato nella vostra vita, uno sconosciuto per lo più, anche lì qualcuno che magari conoscevate poco o che proprio non conoscevate per niente, come il caso di Giordano, che è arrivato a casa vostra e si è portato via qualcosa. Magari non scassinandovi la casa, magari con un sotterfugio, o magari proprio perché voi volevate liberarvi di quella cosa lì. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, altrimenti il profilo Facebook del programma, che è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui. Non si può cambiare il nome, altrimenti l'avevamo già chiamato, voi siete qui. Oggi è il momento di raccontare la storia di Giordano Rossato per l'esattezza. Giordano, quando ci ha mandato il racconto, che era un po' più breve di come poi ve lo racconterò io, aveva un titolo straordinario che appena l'abbiamo letto, sia io, sia Tiziano, sia Stefano, ci siamo detto: questo sembra veramente il titolo di un racconto di Paul Auster, ed era L'uomo che mi portò via la sedia a dondolo. Ed era un titolo che in sé era già talmente bello che poteva diventare un racconto solo a partire da quello che poteva essere un incipit. Qualsiasi sia il racconto che state scrivendo e qualsiasi sia il titolo, continuate a mandarlo a voi siete qui @radio24.it. È molto probabile che ancora per qualche ora vi arrivi una mail di risposta che dice che non c'era spazio sufficiente nella casella. Non è vero, i racconti ci arrivano, tranquilli. Qualcuno che vi ha portato via qualcosa, qualcuno che vi ha portato dentro nella vostra vita qualcosa, è il caso di Ramona dice che vorrebbe essere romantica. Potrei dire che mi ha portato via la voglia di vivere, potrei dire che mi ha portato via la voglia di credere negli uomini, nella felicità, nella spensieratezza e mille altre cose che la cartina dei baci perugina potrebbero smontare in 2-2-4. Ma non era 4-4-8? Era 4-4-8, ah ok. Però, insomma, qualcosa la rilego, qualcosa che la cartina dei baci perugina potrebbe smontare in 4-4-8. E invece il barbone in questione mi ha portato via una meravigliosa chiavetta USB a forma di geco del valore di 9,90 euro. Vale lo stesso, Ramona, vale anche di più. E poi ancora, Alex, qualcuno mi ha portato via le scarpe in palestra. Mi sono immaginato la scena, le vede, si guarda attorno, poi fa la prova del piede e zac, se le mette in borsa. Gli ho augurato una psoriasi a vita. Proprio cose d'altro tipo. Olivia, qualcuno ha lasciato un figlio nella mia vita e se n'è andato via. 17 anni fa mi sono trovata sola con un bambino minuscolo. Di solito i bambini sono così, cioè sono minuscoli. Non ne ho mai visto proprio uno appena nato, però le foto. Lui era minuscolo e suo padre era semplicemente scomparso, senza parole né scuse. Non ti sto a raccontare tutto quello che è successo in questi anni. Adesso sono però felice di avere Giovanni nella mia vita. Ho un marito e una figlia arrivati più tardi, ma se chiudo gli occhi e penso a quel minuscolo bambino con gli occhi fissi nei miei, provo sempre un tuffo al cuore. Ti ripeto il numero per mandare un SMS per raccontare qualcosa che qualcuno ha lasciato nella vostra vita o che si è portato via. È 349-238-6666. Andiamo al dunque, andiamo al cuore della puntata di oggi, andiamo alla storia dell'uomo che mi portò via la sedia a dondolo. sabato pomeriggio. Le nuvole stanno coprendo il tramonto, minaccia pioggia. Stiamo per andare a cena. Da quando la mia compagna è incinta, è sempre molto affamata. Suona il campanello. Alla porta si presenta un tizio che non conosco. Da come è vestito, non dice niente di familiare. È un incrocio tra Vasco Rossi da giovane e un hippie, tipo Easy Rider. Ha un pizzetto coi baffi incolti, pantaloni sdruciti, una maglietta sporca e un paio di All Star nuove di pacca ai piedi. Ha uno sguardo neutro, sembra uno che sta lavorando. Uno che ha una certa urgenza, ma che non gliene frega poi un granché. Nel tempo che lo sto a studiare comincia a piovere forte, allora lo faccio entrare, anche se non si è ancora presentato. Sì, ho visto anch'io Funny Game, quel film dove due sconosciuti molto educati bussano alla porta e poi si ritrovano a uccidere chi hanno davanti. Però sono sempre stata una persona fiduciosa, di quelle che quando suona il citofono sorride. Non come mia madre era diversa. Lei quando squillava il campanello diceva a tutti di stare zitti, così si poteva far finta di non essere in casa. Le volte che abbiamo lasciato fuori dalla porta la zia solo perché non aveva avvertito che arrivava non si contano. Insomma, il tizio con poche parole mi chiede se ho dei mobili vecchi, credenze, comodini. Io penso che sia uno di quei robi vecchi che cerca affari porta a porta. E lì per lì gli dico che sì, qualcosa in cantina dovrei avercela. Nel frattempo arriva anche la mia fidanzata, Anna, e i nostri due cani, due pincher nani. Lo annusano con un po' di sospetto, che è giusto per il loro ruolo. Chissà come prenderanno l'arrivo di Thomas, nostro figlio. Loro abbaiano perché sentono che arrivano estranei, però poi vanno via prima che passa, se posso. Cioè, perché non sono cani normali, tipo bastardini, cose così. Cioè, non sono neanche di razza pura, tra l'altro, sono pincher nani, ma non sono pure 100%, però sono due pesti. Alla domanda che cosa desidera, il ragazzo risponde che cerca mobili vecchi. Guarda i cani, si china per accarezzarli. Non è né gentile né scorbutico. È uno come un altro. I cani scodinzolano, non mi sembrano nervosi. Io mi fido molto del loro fiuto. Lo faccio entrare, lo accompagno giù per le scale verso il garage e la cantina. Gli faccio vedere quei quattro mobili che i miei mi hanno lasciato e da cui non ho mai voluto separarmi. Sono a metà tra oggetti utili e memorie di famiglie. Quelle cose che non le butti, ma non le usi. Però sai bene che non fanno più parte della tua vita. E quindi le nascondi ai tuoi stessi occhi, in un buco, per terra sotto casa. Tra me e me per un momento penso che magari riesco a vendergli qualcosa. Così libero dello spazio e metto da parte qualche altro soldo per Thomas, che nascerà a settembre. Mi sto rendendo conto pian pianino che finché vedo quello degli altri dico, vabbè, sì, è bello, nel momento qui è il tuo, però che prendi in mano è tutta un'altra cosa. Cercherò di essere un buon padre, tranquillo. Dicono che a volte la fortuna bussi alla porta. È il mio modo personale di vedere la vita. Non l'ho ereditato da nessuno, me lo sono costruito da me. E poi secondo me un paio di ribaltine di valore ce le ho. Gli mostro la mercanzia, lui la guarda con superficialità come fosse un esperto, ogni tanto si ferma e controlla meglio. Ma dopo qualche minuto mi dice no, niente roba di valore. E batte con le nocche della mano come a sentire se fossero piene di tarli o meno. Sposta qualche coperta, apre un paio di ante di comodino. Niente. Allora gli faccio vedere un altro angolo della cantina, dove c'è un bel tavolo. Lo sguardo gli si illumina. Poi però vede che è impregnato d'olio d'officina. Alla fine gli mostro l'ultima spiaggia. Due sedie a dondolo in rovere. Lui mi guarda e mi fa no, niente. Neanche queste, troppo vecchie. Facciamo per tornare su. Poi lui ci pensa un attimo. Mi dice, vabbè dai, facciamo che mi prendo una sedia, giusto per non tornare a casa mani vuote. Io gli chiedo se vuole lasciarmi il numero di cellulare, se ci ripensa anche per il resto o per l'altra sedia. Magari mi avvisa. Mi dice che è meglio di no. Prende la sedia, saluta, ringrazia e se ne va. Ecco, è così che ho subito il mio primo e unico furto della vita. Senza scasso, senza paura, praticamente quasi senza furto. E alla fine io con le mie sedie spaiate e lui con un oggetto che forse non rivenderà nemmeno. Non è stato esattamente Ocean's Eleven, però adesso ho dello spazio libero in cantina. Se prendo coraggio, faccio un bel falò di tutto e riempio il vuoto con qualcosa di nuovo. Un tavolo da ping pong, un divano, una televisione, una poltrona per leggere. A volte si ruba per necessità, a volte per piacere. a volte per caso, che secondo me è capitato a tutti. Magari solo un piccolo furtarello da bambino, dal giornalaio. Una volta è capitato anche a me, ma mi sa che ve l'ho già raccontato. Però non ho smesso di fidarmi di me stesso, della gente. Per un certo periodo della mia vita ho fatto del couchsurfing, quello che dormi sui divani degli altri. Me l'aveva consigliato un amico che avevo potuto vedere un sacco di città che non avrebbe mai visitato e ha conosciuto un sacco di gente. E ne incontri un casino, effettivamente, e ne ospiti altrettante. È un mondo in cui tutti si fidano. E in fondo sei controllato, nome, cognome, indirizzo, quindi è difficile capitare da malintenzionati. Accedere al servizio è molto semplice, si tratta di iscriversi a un sito e mettere a disposizione la propria casa per chi ne ha bisogno. In cambio si possono avere soggiorni gratis ovunque. In realtà mi sono stufato presto, in pratica ho ospitato solo due persone e io non sono mai andato da nessuna parte. Uno era un tizio austriaco, parlava poco, non ci ho capito niente. Si è fermato solo 3 giorni. L'altro invece era un ragazzo inglese. Era tutto entusiasta, tutto innamorato di Milano, delle sue bellezze artistiche, mi diceva. Mi parlava di Caravaggio, del Lotto, che io conoscevo solo per il piazzale qua dietro la radio, che è quello da cui si prende la navetta per andare a San Siro. Invece no, è un pittore bergamasco, me l'ha insegnato un ragazzo inglese. Peter si era piazzato da me per una settimana, ma non era stato per niente invadente. La mattina usciva prima che mi svegliassi e la sera tornava sempre con un pezzo di parmigiano e del prosciutto San Daniele. Era un po' un appassionato del cibo italiano e di tutti gli stereotipi per cui siamo famosi nel mondo, quindi era bello averlo in casa. Poi un giorno è praticamente scappato. Si è accorto all'ultimo di dover partire e mi ha mandato un SMS dicendo che per fortuna gli avevano cambiato l'orario del volo di mezz'ora e quindi gli avevano telefonato, e lui lì si era accorto che quello era il suo ultimo giorno e doveva partire. Si scusava per non potermi salutare, ma doveva scappare e ciao. Un tipo gentile, un po' sulle nuvole, ma gentile. Io sono tornato a casa, era tutto in ordine e ho pensato che andasse bene così. Poi, mentre mettevo a posto il divano, tra un cuscino e l'altro, ho trovato un iPod. Era qualche anno fa e ancora non ero così avanti tecnologicamente. È stato bellissimo usare quell'aggeggio che Peter aveva dimenticato da me, quell'oggetto che era entrato nella mia vita. Potevo ascoltare musica che non avevo mai sentito. Potevo aggirarmi nei gusti di un inglese, un tipo mezzo fumato, un po' fuori. Potevo usare un oggetto che non potevo nemmeno permettermi. Certo, prima di riuscire ad usarlo ci ho messo un bel giorno e mezzo, perché non ci sono mica tasti che si schiacciano, no? Sono cose che si sfiorano, che rotiano. E io ho dovuto chiedere a un amico che un iPod ce l'aveva già. E poi mi è arrivata una mail di Peter, che mi diceva che forse aveva dimenticato da me l'iPod. E io ovviamente non potevo continuare a mentire. Sì, certo, potevo dire che non era così, anzi, che probabilmente lo aveva lasciato su qualche treno. Ma avete presente quella vocina dentro la testa che ti dice le cose che non volete sentire, no? Perché sai che sono cose giuste. Insomma, l'ho ascoltata, quindi mi sono limitato a chiedere a un amico come si faceva a craccarlo per scaricarmi tutta la musica, che è una operazione anche abbastanza complicata. E poi l'ho messo in un pacchetto e con rassegnazione sono andato alla posta per rispedirlo. Era stato un bel dono e me lo sarei anche tenuto. Sabato sera pioveva e un tizio gli portò via una sedia a dondolo. Adesso invece è un giovedì pomeriggio, c'è il sole, però aspetta un figlio. Pronto, Giordano? Ciao. Ciao, come stai? Bene, abbastanza, dai. Dove sei in questo momento esatto, Giordano? Sono a casa. Che lavoro fai? Disegnatore tecnico. Scusami? Disegnatore tecnico. Disegnatore, quindi disegni della roba, lasciami dire, tecnica, però di che tipo? Facciamo praticamente periferiche per spostare il vetro, cavo, in vetreria. No, aspetta, scusami, perdonami se mi soffermo su cose tecniche. Tu cosa vuol dire che fai? Cosa sono delle periferiche? Cioè, facciamo macchinari che spostano il vetro dalla macchina, praticamente, che ha stampato il vetro. La macchina. Ah, ok, lavori per un'azienda che crea dei macchinari che spostano il vetro. Sì. Ma e tu cosa disegni? Le macchine, i macchinari? Sì, ma anche macchinari particolari, accessori. Ok, di dove sei esattamente? Di Brescia? No, sono di Vicenza. Sei di Vicenza, giusto, l'avevi detto in apertura, perdonami. Di che paese esattamente? Adesso sto con Eto Vicentino. Scusami? Corneto Vicentino. Corneto Vicentino, certo. Tanto tutti i nomi, tutti i paesi più o meno ci hanno attaccato Vicentino o... Sì. In quella zona lì. Senti, Giordano, raccontami quanti oggetti ti sei liberato da quella volta o se ce li hai ancora tutti nella cantina. È venuto a prendersi le altre sedie. È tornato? Sì, è tornato. Quando è tornato? Dopo un po' di mesi. Ma era lo stesso? Sempre lo stesso, vestito uguale. Con le stesse All Star? Sì, sempre vestito sempre uguale, preciso, identico. Solo sono riuscito a chiedergli il nome sto giro. E come si chiamava? Vittorio. Ma ringraziamo Vittorio. Ma t'ha pagato? No, ma lui praticamente ha preso questa serie qua. Ma lo credo che ho capito. Gli servivano. C'erano delle serie dondolo con questi paletti qua un po' lavorati. Gli servivano per fare qualcos'altro. Cioè lui non le ha usate come serie. Ma questo cosa fa nella vita? Scusami, Giordano. Abbiamo capito? Penso forse non so, il trovarobista. Oppure farà, che ne so, la. Prenderà spunto dei programmi là che rielaborano gli oggetti vecchi per fare qualcos'altro, non so se è presente. No, non ho molto presente, ma mi sembra di capire però che da quelle parti fate dei lavori che sono molto lontani da quelli che facciamo noi, perché tra il delineatore del portavetro e quello che fa il trovarobista, cioè, perlomeno nel Novarese non ci sono questi lavori, non so nel Vicentino. Penso che lo faccia come hobby comunque, auguro almeno. Senti tu gliele date gratis perché volevi liberartene di queste sedie? Perché non me ne facevo niente alla fine, cioè... La stanza del bambino è pronta? Beh, stanza dei bambini, cioè, ci sedevamo fra 3 mesi, quindi non siamo stati lì a fare la stanza dei bambini, insomma. Però è tutto pronto. Ah, ok. Quanto manca esattamente? Potrebbero mancare qualche ora, come qualche giorno, insomma, siamo prossimi. Ah, siamo qui! Sì, siamo come qui. Diceva il mio amico Peppo, è questione di ore, anche se erano passate solo 2 settimane da quando avevano saputo la notizia. Insomma, siamo proprio sul pezzo. Sì, sì. Perché l'avete chiamato Thomas? Perché io sono la batteria, come forse saprai, che ti ho già scritto anche sì, qualcosa. Sì, mi ricordo. E quindi? C'è un batterista che mi piace parecchio, che mi ispira parecchio. Che si chiama? Thomas. No, certo. Thomas Lang. Ed è un batterista che suona in un gruppo o suona da solo? No, suona un po' dappertutto. Ha suonato con Gianna Nannini, con Robbie Williams, con Annie Lennox. Senti, e poi ti lascio tranquillo. E quella povera donna della tua fidanzata sta bene, Thomas. Va bene Thomas Zenghe, quindi. Sì, sì, beh, lo chiamo solo Thomas, non lo chiamo Thomas Zenghe. No, beh, lo immaginavo. Giordano, io ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto e vi faccio gli in bocca al lupo per Thomas e per tutto il resto. Ok, grazie. Buona giornata. Ciao, grazie. Thomas, come si chiama? Thomas. Beh, fino a qua ci eravamo arrivati. Grazie a Giordano. Un gattino. Ok, ci hanno portato via. Un gattino che avevamo trovato dentro casa. 3 giorni dopo aveva il padrone. 349-238-6666. Avevo 5 anni. Lei è entrata in una notte di primavera e se n'è andata dopo 48 ore, portando via con sé il mio fratellino di 2 anni quasi compiuti. È tornata 3 anni dopo e ci ha portato Paolo, di quasi 4 kg, fratello inaspettato. Ha sempre ragione lei, la vita, Marcello. Nel 73 venne un navigatore e ci chiese il nostro 17 metri a vela. Però allora aspetta, cioè se ve l'ha chiesto è un conto, se ve l'ha portato via è un altro. Anche a me è stato lasciato un figlio, 1988, lui aveva 2 anni e mezzo, l'ho cresciuto ed ora è molto, ma molto migliore di me, sono il padre e lei aveva cose più importanti da fare, è stato fantastico. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia, io sono qui, oppure la mail, voi siete qui, @radio24.it. Oggi sono entrato in una libreria e me lo sono portato via pagandolo però, un libro, dunque però... Ti parlo più tardi, va. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Giordano è ovviamente insieme ai suoi 2 cani, i suoi 2 pincernani, che poi non sono esattamente 2 pincernani, cioè sono nani ma non sono 2 pincer. È seduto probabilmente su un divano, è un autoscatto perché tiene la macchina fotografica di fronte a sé e tra le braccia ci sono sti 2 cani. Ha una montatura degli occhiali rosa, Giordano. È un po' stempiato, proprio di quella stempiatura che ti fa come una specie di M qui sulla fronte. È in casa, c'è luce, probabilmente l'ha scattata di recente la foto. Ha quelle tende a quelle tende che a tutti i costi mia nonna vorrebbe darmi, quelle ricamate da una parte, bianche e lunghe lungo tutto il vetro, e alle sue spalle invece ha un quadro dove c'è raffigurato un castello che sembra il castello della Walt Disney. Voi siete qui. Trovate la foto sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui. Oggi ci ricordiamo anche di linkarla, sul profilo Facebook del programma, dove trovate non solo questa foto, trovate un pezzo della storia che ci ha mandato Giordano e una mappa su cui trovate tutte le storie localizzate da qui alla fine di questo programma. 349-238-6666. Mi hanno portato via il manuale delle giovani marmotte, il primo, quello più bello, Stefano. Qualcuno? Questa è una storia di un oggetto che è uscito ed è entrato più volte nella stessa vita. Qualcuno ha portato via la mia bici una sera. Due giorni dopo, a 20 km di distanza da casa mia, l'ho ritrovata dentro a un giardino privato. Ho aperto e senza dir nulla l'ho ripresa. E poi c'è questo messaggio che... è un messaggio che parla di poesia. C'è della grande poesia in questo messaggio. L'ho perso? Eccolo qua. Iris lo scrive. Chi si è preso la moneta d'argento della mia verginità mi ha lasciato l'oro dell'esperienza. Che mi toglie un attimo la base, Roby. Che detto così sembra quasi romantico. 349-238-6666. Paola, la scala. Passiamo così, dall'oro della mia verginità alla scala. Il mio ex compagno era alto quasi 2 metri e quando ci siamo lasciati ha portato via la scaletta, che non era nemmeno altissima, era quella da 3 gradini. Ma lasciamela, no? Evidentemente, Paola, se lui era alto 2 metri, quella scaletta serviva a qualcun altro. Claudio, qualcuno si è portato via i 2 passeggini delle mie figlie gemelle che avevo lasciato allo stabilimento balneare. Rubare le elemosine e i passeggini è da ignobile. Qualcuno che invece ha lasciato qualcosa. Silvia, un ex, ha lasciato le sue pentole a casa mia. Emanuele, anche lui è uno che appartiene al gruppo Romantici. La voglia di scrivere. L'ultima ragazza che è uscita mi ha lasciato molta voglia di scrivere. Che è uscita dalla mia vita. Mi ha lasciato molta voglia di scrivere. E così, dopo qualche anno di pausa, ho ricominciato a farlo. Visto che si parla oggi di cose che vengono portate via o che vengono portate dentro alla nostra vita, mi è venuto in mente un pezzo di un romanzo che è proprio un romanzone, che sono 879 pagine. È un romanzo di un autore americano che si chiama Don DeLillo, anche se chiaramente è di origini italo-americane. Si chiama Underworld, sicuramente qualcuno di voi l'avrà letto o almeno l'avrà visto in libreria. È la storia di un oggetto che entra nella vita di diverse persone. Attraverso il racconto di questo oggetto che passa nelle mani di, mi pare, 8-9 persone diverse, DeLillo racconta 50 anni di storia americana, cominciando dal 1958, abbiamo detto, Tiziano. Questo oggetto è una pallina da baseball che viene proiettata fuori dal campo da baseball dei Giant, mi pare. No, non dei Giant, dei Dodge, dei New York Dodger, fuori dallo stadio che si trova nel Bronx, e da lì viene passata di mano in mano. C'è un pezzo che è proprio all'inizio del romanzo, se non avete voglia di leggervi tutte le 800 pagine, leggetevi l'inizio, che racconta proprio del momento in cui uno dei protagonisti di questa storia è riuscito ad afferrare questa palla. L'intera battaglia sotto il sedile è durata solo qualche secondo. Adesso Cotter sta rinculando, si sta muovendo precipitosamente. Ha preso la palla, la sente calda e ronzante nella mano. Percepisce vagamente la gente che lo lascia passare brontolando. Lo lascia passare ma senza fretta. Faccia qualsiasi, con gli occhi spenti. La palla trasuda ancora il calore e il sudore della mano del rivale. Cotter tiene il braccio a penzoloni, cerca di togliersi qualsiasi espressione dalla faccia. Guardate gli uscieri dello stadio, che chiudendosi vicendevolmente le mani intorno ai polsi fanno un seggiolino per la vittima dell'attacco cardiaco e lo sollevano portandolo al pronto soccorso sotto le tribune. Un'occhiata alle sue spalle, si concede un'occhiata, Cotter, e vede il rivale che si sta rialzando. È un uomo che non passa inosservato, stazza pesante, camicia bianca. Non è lo studente, come aveva creduto, il ragazzo con il giubbotto del college che aveva incominciato a contendergli la palla. E l'uomo sorprende il suo sguardo. Questa è l'ultima cosa che Cotter desiderava. Ha fatto un errore a voltarsi a guardare. Si è concesso un'occhiata, uno sguardo intralice, e adesso è prigioniero dello sguardo truce dell'uomo. Le cucitori in rilievo della palla gli pulsano nella mano. I loro occhi si incontrano negli spazi tra i corpi che dondolano, le facce che si sporgono e le ampie schiene dei tifosi che gridano. Tutto intorno fervono i festeggiamenti. ma lui è prigioniero dello sguardo dell'uomo. E quando si scambiano un'occhiata al di sopra della folla e attraverso la folla, si accorge che l'uomo è Bill Watterson, con la camicia bianca tutta macchiata e i capelli scarmigliati, ritti in testa. Il suo buon vicino, Bill Watterson, che ora lo sta guardando con un sorriso da tagliagole. Questo si chiama I Don't Believe You, loro sono i Magnetic Fields, e invece il pezzo che avete sentito è tratto da Underworld, l'autore si chiama Don DeLillo, che riprendendolo in mano sto libro è proprio, come dice Tiziano, è Dostoevsky in sostanza, è una roba che quando si parlerà della letteratura di quest'epoca probabilmente si parlerà di questa roba qua. La storia, tra l'altro, la storia della palla da baseball potrebbe in teoria finire lì, perché il bambino non ha nessuna intenzione di lasciarsela sfuggire dopo aver lottato con il suo vicino di casa sotto la sedia per raccattare sta pallina che è uscita con il fuoricampo. Lui se la porta a casa. La cosa che accade è che poi la notte stessa il padre, che ha capito che palla è quella, è una palla che ha un valore inestimabile, perché una vittoria di quel tipo a quella squadra non capiterà per un altro mezzo secolo probabilmente, gliela ruba e la rivende per $2, e da lì comincia il viaggio di questa pallina all'interno degli Stati Uniti, all'interno della storia degli Stati Uniti. Però adesso, durante il brano, scusa, io volevo rileggere, c'è un altro pezzo che vorrei leggere. Mi dai, ce l'hai una basettina, Tiziano, da darmela al volo? Magari non la leggo proprio tutta, se ce l'hai, guarda, quando la fai partire. Questo è proprio il pezzo finale del primo capitolo, in cui lui dice: questa è la storia della gente, è appena finita questa partita, c'è una gioia devastante in giro per il Bronx, tutta la gente si butta per le strade, vabbè, insomma, avete presente la festa dopo la vittoria di uno scudetto, dopo la vittoria di una coppa, qualcosa di più. Però lui racconta: questa è la storia della gente, e i tifosi di oggi al Polo Ground potranno raccontarlo ai loro nipoti. Saranno dei vecchi chiacchieroni con un piede nel prossimo secolo, e cercheranno di convincere chiunque sia disposto ad ascoltarli, insistendo con alito da medicinali che loro c'erano quando è successo. E poi racconta di una scena in cui c'è un tizio che è entrato nel campo, ha invaso il campo, è ubriaco, e sta correndo come se fosse un giocatore di baseball tra le basi. Si avvicina alla seconda base in un parapiglia di lembi di impermeabile, arte, stringhe slacciate e cintura svolazzante. È ubriaco. Tutti si accorgono che sta per scivolare e si fermano a guardarlo andare a gamba all'aria. Tutti i frammenti del pomeriggio si accumulano intorno alla sua figura a mezz'aria. Urli, schiocchi di mazza, vesciche piene e sbadigli isolati, il numero infinito di cose che come granelli di sabbia non si possono contare. Tutto sta scivolando indelebilmente nel passato. Leggetevi anche solo questo capitolo, sono 58 pagine. Underworld di Don DeLillo. 349-238-6666. Giordano ha scritto un messaggio perché ci tiene a farci sapere che gli occhiali sono bianchi, non sono rosa. E grazie per la stempiatura. Giordano, grazie a te. Non è un problema, cioè, come dire, non è sulla foto. Il quadro è un puzzle, dice. Quindi Giordano è uno che fa i puzzle. Ma visto che si parlava di cose portate via, di cose di persone portate via, non poteva esserci il furto di persona per antonomasia. Quello che un giorno ti accorgi che la persona che stava di fianco a te, chissà come mai, sta di fianco a qualcun altro. È stato il più classico dei furti, quello che tutti hanno subito almeno una volta. Mi hanno portato via qualcosa, anche se forse non è stato un furto a tutti gli effetti. Perché se devo pensare a una persona che mi ruba qualcosa, mi viene in mente un tizio incappucciato che entra in casa mia, oppure che mi forza la portiera dell'auto per portarmi via un oggetto, qualcosa di inanimato, che non può opporre resistenza. Invece quello non fu un furto con tutti i crismi, perché ciò che mi portarono via era la mia compagna. È stato un gioco, piuttosto, quel gioco di squadra, uno di quelli in cui, se non sei un campione, non riesci a vincere in nessun modo. Ci conoscevamo da tanto io e lei, e la carta della fiducia mi sembrava da giocare ormai. Marta aveva 19 anni, io uno in più. Aveva i capelli neri che le arrivavano fino alla spalla e un sorriso che sembrava accentuarsi verso sinistra. Non era particolarmente bella, ma avevo trovato una donna per davvero. Dopo quei 3 giorni in cui non ci eravamo sentiti, andai sotto casa sua ad aspettarla. Lì lei mi disse che non c'era più niente. Mi sentii cadere in 1000 goccioline d'acqua. Lo stesso pomeriggio poi vidi il mio amico passeggiare per mano sua per i viali della città. Ero rapito dallo stupore di aver lasciato qualcosa in un posto sicuro e non averlo trovato più. Grazie a Giordano che ha scritto questa storia, grazie soprattutto a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni, a Roberto Scaltritti e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Giordano e dell'uomo che gli ha portato via la sedia a dondolo. Quella di domani invece è la storia di Marco e della guida Sioux. Il piano iniziale era chiaro, atterro a Wichita, vado diretto in albergo, il mattino dopo affitto una macchina e vado a incontrare il cliente a Parson. Parson in condizioni normali dista circa 1 ora e mezza di macchina. In condizioni normali, non sotto la tempesta del secolo. E allora dovevo mettermi nelle mani di una guida Sioux, un discendente del popolo che viveva queste pianure prima dell'arrivo dell'invasore bianco. Chissà se ce l'avrà con me. Forse dovevo dirgli che noi italiani non c'entriamo niente, almeno questa volta.